siamo tutti qua anche perché volete sapere la mia avventura, la mia pazzia. Diciamo che è partita 2 anni fa quando ho fatto la Strabologna con l'esoscheletro. Ho voluto partecipare alla Strabologna perché io sono bolognese e volevo condividere con i bolognesi questo bellissimo evento sportivo, perché io mi sento una persona sportiva, sono molto legato allo sport, perché quello che dico sempre, lo sport è veramente importante. Lo sport vi salva la vita, e a me me l'ha salvata 2 volte la vita lo sport. La prima per superare il trauma quando ero piccolo dell'abbandono di mia madre, che mi sono buttato sul pallone, mi sono buttato sul calcio. La seconda volta che lo sport mi ha salvato la vita è stata per superare il trauma dell'incidente. Ho cominciato a fare tantissimo sport, mi sono proprio buttato sullo sport. Ecco perché dico sempre a tutti che è importantissimo fare sport, perché salva veramente la vita. Vi pulisce la mente e vi rilassa veramente il corpo. Ecco perché punto molto sullo sport. E quindi dopo la Strabologna ho voluto e voglio continuare questo cammino. Continuare questo cammino che mi porterà con l'esoscheletro a arrivare fino a San Luca. Ecco, il 29 di giugno del 2021 saranno 10 anni dal mio incidente e la festa più bella sarà festeggiarla tutti insieme sul parco, sul giardino della chiesa di San Luca. Quindi io mi sono posto questa sfida, questo obiettivo, e vi dico che io con la testa sono già su. Io spero che tutti voi mi seguiate e mi aiutate con una spinta. Ok? Perché io ho veramente bisogno di tutti, perché l'unione fa la forza e una squadra forte è unita e arriva fino all'obiettivo finale. Quindi questo è il progetto che volevo fare, che voglio fare. Ovviamente perché ho fatto e ho pensato di fare questa camminata? Per aiutare 4 associazioni che nel momento del bisogno mi sono state vicino, per mandare anche un messaggio all'Italia e a Bologna, il messaggio di ripartire. Dopo tutto quello che abbiamo passato per colpa del Covid, è giusto ripartire e dobbiamo farlo tutti insieme. Quindi io lancio questo messaggio di ripartenza. Come sono ripartito io, è giusto che anche tutti gli altri ripartano. Ma come vi stavo dicendo prima, ho voluto fare questa pazzia, questa avventura, per aiutare queste 4 associazioni che mi sono state vicino nel momento del bisogno, perché anch'io ho avuto bisogno. Diversamente disabili, l'Avis, Mi fido di te, l'Aida Onlus e l'associazione Vittime della Strada. Voi mi chiederete: come faccio ad aiutare queste associazioni? Ovviamente farò una raccolta fondi e questa raccolta fondi la apriremo oggi tramite crowdfunding. Quindi tutto il ricavato andrà diviso in parti uguali a queste 4 associazioni. La piattaforma è sul GoFundMe e praticamente è su tutte le pagine Facebook e dell'evento. Quindi si va lì, si clicca e si fa l'offerta.